Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Uscii con 60 sessantesimi, il massimo dei voti. Pensai che davanti a quel successo i miei genitori non avrebbero potuto negarmi l'università. Volevo fare lingue e letterature straniere. Invece no, lo fecero e come. No, Marina, non abbiamo soldi. Tua sorella si sposa e servono per lei. Tu vai a lavorare. Ecco, lì diventai ancora più arrabbiata. Mi chiamo Marina, abito a San Colombano, vicino a Milano. Ho 35 anni, un bambino di 11 anni e lavoro in ufficio. Sono impiegata in un'azienda di commercio. È venerdì 3 febbraio del 2012, sono le 16:07, non è un venerdì qualunque. Oggi si parla di rabbia e ringrazio Marina per averci dato la possibilità di farlo e per avermela data la possibilità di farlo. Io non so se la rabbia renda liberi o renda schiavi. La puntata di oggi però, quantomeno il racconto di Marina, scusatemi, mi ha fatto capire che in qualche modo è semplicemente un sentimento come un altro che va quantomeno accettato. Ed è proprio per questo motivo che io vorrei rivolgermi oggi a, credo, migliaia, forse decine di migliaia di persone che questo sentimento lo stanno provando e lo stanno provando soprattutto in una zona geografica che è il centro Italia. Arrivano immagini sul televisore dello studio qui di fianco, terribili. Vedo Alemanno vestito come fosse Putin, vedo gente che mette le catene su uno strato così di neve che no, ragazzi, no, perché rovinate tutto, la strada, le gomme, quindi calmi. Quindi romani all'ascolto, però abbiamo bisogno di voi. Io sono seriamente preoccupato, ci sono due amici che vivono a Roma, che non sento da almeno 45 minuti. Non so più che fine abbiano fatto. Marco, Mauro, fatemi sapere qualcosa. 349-238-6666. Se siete intrappolati nel traffico, se la neve vi arriva alle suole delle vostre scarpe, se avete cercato di spalarla ma non avete giustamente la pala per scavarla, se al motto di attacca attacca, inteso come la neve per strada, siete nel panico, 349-238-6666. Facciamo un po' di radio di servizio, perché hanno chiuso le scuole. Domani sono chiuse le scuole. No, tutto chiuso. Prima Alessandro Marco Tulli, che è romano e attorno a cui tutta la redazione si era unita per paura che ci fosse qualcosa che non andava a casa, mi ha fatto vedere un'ansa che diceva, con decorrenza immediata, chiusi tutti gli uffici pubblici a Roma. Non ho capito la storia delle scuole che erano aperte ma erano chiuse stamattina. Comunque, insomma, qualcuno ci è andato, altri tesoro sta a casa che c'è la neve. 349-238-6666. Si parla di rabbia, del fatto che, oh, la si prova in alcuni momenti della propria vita. Cioè, vale, no? Giusto, soprattutto se... Eccolo qua. C'è Alemanno, è Putin praticamente. Ha un parca in testa. Quanti... cani in mezzo alla strada, cani che si scuotono dalla neve, sale sparso ovunque. Mario scrive: io provo ogni giorno molta rabbia quando mi accorgo di essere schiavo di questa città. Però Mario è di Milano, quindi adesso non... che è troppo affollata e del lavoro che faccio. Giulia: alle volte mi chiedo con rabbia se questa è davvero la vita che volevo, perché alle volte mi sta proprio stretta. Però ce n'era un'altra, scusatemi, a proposito della rabbia. Eccolo qua, Arianna, esattamente, è proprio il messaggio di cui abbiamo bisogno. Io non mi vergogno della mia rabbia e non me la tengo dentro, non più. Fa malissimo tenersi dentro la rabbia, chissà in cosa si può trasformare. Non voglio saperlo, la rabbia mi monta dentro quando mi sento sopraffatta da un'ingiustizia, soprattutto se palese, quando non ce la faccio più. La rabbia è il mio avvocato difensore che scende in campo per tutelare i miei diritti, le mie ragioni, i miei sentimenti o quelli di coloro che stanno zitti e subiscono invece di reagire. Insomma, è una puntata tutta dedicata alla rabbia. Intanto arrivano i messaggi da Roma: comunicare di evitare le automobili. Ma in che senso? Cioè, di non salirci o quando ti arrivano incontro? E poi ancora, ho chiamato, la gente cerca di chiamare. No, messaggi, 349, ragazzi, mantenete la calma, vi prego. Allora, 349-238-6666 è per gli sms, ok? Se avete una mail, ma funzioneranno le mail? Forse con la neve sono saltate anche le comunicazioni. Allora, Ieti mi scrive: provo rabbia tutti i giorni pensando che devo pagare debiti non miei. Va bene. E poi ancora: ho approfittato della neve per andare in slitta sulle strade di casa mia e per fare l'angelo in mezzo alla neve. Sara, ma no, io non voglio gente tranquilla, voglio gente arrabbiata, nel panico, capito? Da Roma. O forse sono caduti i ponti radio. Forse non si sente Radio 24 a Roma. 349-238-6666. L'ultimo messaggio che invece non c'entra con la città. Da quando ho avuto il mio secondo genito, scrive Francesca,

dirò. Ciao Matteo, sono Maurizio da Roma. Stare sul grande raccordo anulare in coda con la strada pulita e il caos del traffico. Noi a Roma siamo bloccati da 3 ore e mezza vicino a Piazzale Clodio, non ci si muove. Da 2 ore e mezza in tangenziale con mio figlio a casa con la febbre. Ancora Mario, da 4 ore bloccato sul raccordo, nel traffico è il panico. E poi c'è uno che non capisco. Roma, finalmente ho schiacciato il pulsante W della mia macchina. Forse domani per strada troverò un po' di neve. Sarà 4 ruote motrici, sarà una roba del genere. Tutto bloccato per 2 centimetri di neve, automobilisti nel panico, di neve ce n'è pochissima. Sono uscito dall'ufficio alle 13 e sono a metà strada. Ho percorso 8 km in 3 ore. E domani è pure sospesa Roma-Inter, che però vedevo adesso è stata rimandata a domenica alle 15. Manca un po' chi se ne frega. 349-238-6666. Chi se ne frega, perché l'autrice del racconto di oggi, che ha fatto scattare tutto questo fenomeno sulla rabbia, anche se probabilmente andava da un'altra parte in realtà il suo racconto, è Marina. Pronto Marina? Ciao, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Senti, come avrai sentito, a me la cosa che più ha colpito del tuo racconto è stata questo aspetto legato alla rabbia giovanile, no? Al fatto che c'è stato un momento della tua vita in cui davvero eri arrabbiata. Eri arrabbiata con la tua famiglia, probabilmente, eri arrabbiata un po' con tutti. Un po' con tutto, sì. Un po' per la scomparsa di tuo fratello, un po' perché, cavolo, vorrei fare una cosa e non posso fare, non posso farla. Come va adesso? Perché dici la rabbia si è trasformata in rassegnazione, però di fatto anche questa promessa fatta a te stessa di fare università rimane, giusto? Certo che rimane e si è accesa ancora di più grazie a mio figlio, e quindi sono convinta che sì, ero arrabbiata, ma poi si va avanti e in fondo i sogni prima o poi si riescono a realizzare. Senti, cosa hai portato di Leopardi alla maturità esattamente? Ho portato l'infinito, la poesia dell'infinito, come antre della mia esposizione. E poi mi divertiva il fatto che ne hai parlato come se fosse un tuo amico, Giacomo sì, Leopardi. Per me era un eroe, lo è tuttora, le sue poesie mi hanno salvato. Quindi scusami, quando dici che ti iscriverai di nuovo all'università, immagino ti iscriverai a lettere oppure a lingue? A lingue e letterature straniere. Ah ok, semplicemente sono passati 20 anni. Sono passati 20 anni, però ripartiamo più o meno da là. Esatto, ripartiamo da là, non è mai tardi. Senti, invece raccontami come fai a fare, nel senso lo chiedo a te, però so che ci sono moltissime persone che fanno lavori per il semplice fatto che hanno bisogno di uno stipendio, no? E quindi probabilmente non amano così tanto il proprio lavoro. Certo. Tu hai un metodo semplicemente per digerirlo tutti i giorni, o semplicemente ogni giorno è nuovo, o hai degli appuntamenti nella giornata, o stai su Facebook tutto il giorno come fanno molti? No, purtroppo no, semplicemente cerco di far passare le ore, ci metto dentro un po' di musica, nelle mie pause mi godo il silenzio e i momenti in cui la mia testa pensa quello che vuole. Ma puoi ascoltarla la musica o lo fai di straforo? No, la posso ascoltare, possiamo ascoltare. Cosa fai esattamente, scusami Marina, se lo puoi dire? Sì, certo, ora sono impiegata, lavoro in un ufficio acquisti. Ok, senti, invece Federico, tuo figlio Federico, che ha 11 anni, fammi capire, è una promessa del basket o semplicemente gli piacerebbe esserlo? Diciamo che gli piacerebbe esserlo, dai. Quindi avrai anche quel problema lì, che a un certo punto dovrà capire che forse non lo è? Ma dai, speriamo di no, 11 speriamo anni di no. Ma quanto è alto Federico? È abbastanza, per i suoi 11 anni è un bel bambinone. E che ruolo gioca a basket? A quest'età non ha ancora un ruolo, fa un po' tutto. Senti Marina, mancano più o meno, quindi lui ha 11 anni, mancano 7-8 anni perché tu ti iscrivi all'università? Più o meno sì. Ok, allora tieni duro e facci sapere se saremo qua ancora, se la neve non ci avrà sommerso tutti. Ma no dai, teniamo duro. Marina, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie, ciao. Ciao, buona giornata. Ciao. L'ultimo messaggio di Max da Roma. Roma ormai infernale. Roma infernale. Le auto non 4x4, che perlomeno sono tipo il 99% delle auto, si intraversano e stanno paralizzando il centro. Chi non è attrezzato per ghiaccio e neve, parcheggi l'auto e torni a casa in metro. Voi siete qui. Marina e suo figlio Federico nella foto che ci ha mandato Marina e che trovate sul sito di Radio 24, la pagina di Voi siete qui, là dove trovate la mappa e un pezzo del racconto di Marina. È estate, sono entrambi in maniche corte, minigonna, cioè non Federico, Marina in questo caso, con degli occhiali da sole, una borsetta e Federico è vestito, direi, da basket, e a giudicare dal contesto e dalla gente intorno e soprattutto da un muro di marmo alle spalle, direi che sono in gita o in vacanza, probabilmente a Roma. Torniamo a Roma, vedo tra l'altro, così faccio delle informazioni veloce, mi metto un po' al posto di Spezia e compari. La Polverini dice è stata attivata una task force H24 su Roma. Elvira, bloccata sul raccordo da uno strato di neve pressoché invisibile, ho finalmente il tempo per pensare. Elvira, mi piace questa filosofia con cui la prendi, c'è gente che piuttosto che pensare uccide i propri familiari in macchina in questi casi. A Roma finalmente oggi i proprietari di SUV scorrazzano in Corso Vittorio alzando cumuli di neve che rovesciano sulle piccole smart come la mia. Devo dire che se loro hanno colpa per aver preso i SUV, anche tu che ti sei presa la smart. Roma sotto la neve è bella da lacrima. Oh, qualcuno che probabilmente è chiuso in casa e guarda fuori. E poi invece... vabbè, questo messaggio ha un tono, perché ve lo leggo. Mirko, questo è quello che mi chiama Mirko. Cioè, non so chi sia, però mi fa molto ridere. Mirko, quante bale per un centimetro di neve. Questo probabilmente arriva da Vicenza o da Rovereto. Non ho sentito... E questo è Tiziano, è per te, eh? Renzo, 65enne. Non ho sentito un solo pezzo musicale inserito nel programma che non mi sia piaciuto da quando vi ascolto. Fate un CD e proponetelo con tutte le musiche. Allora, Renzo, se dovessimo fare un CD, a parte che i CD sono morti, come ci dice Tiziano Bonini, però non così, Tiziano, cioè non con questa cattiva, sono morti. Qualcuno magari c'ha ancora il lettore CD in macchina. Più che altro dovremmo farne un centinaio, perché mandiamo pezzi nuovi più o meno ogni giorno. Però Renzo, trovi tutti i giorni la playlist sul sito di Radio 24. Cioè i tre brani che mandiamo li trovi e poi te li scarichi, pagando chiaramente quello che c'è da pagare per lo scaricamento. Invece, visto che ci chiedete spesso non tanto i brani musicali, ma le basi che usiamo, quelle che sentite... Questa, ad esempio, questa magari no, però quelle che sentite quando racconto le storie. Allora sappiate che sul profilo Facebook del programma Tiziano ha fatto un grande regalo, credo che l'abbia fatto per tutti quelli che rimarranno bloccati nella neve a Roma in questi due giorni e per passare un fine settimana più tranquillo. Ha creato un canale di YouTube con tutte le basi che utilizziamo. Quindi potete star lì, ascoltarvele e quantomeno capire chi sono se vi interessano. Basta che andiate sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui, cliccate su mi piace e vi trovate il link a YouTube. 349 238 6666. Ma non usciamo dal seminato, perché si parla di rabbia oggi, e quando si parla di rabbia spesso si ha a che fare con le proteste. Devo dire che io ho un rapporto particolare con le proteste di piazza, con le manifestazioni. Un po' ne ho fatte poche e un po' ci ho sempre creduto poco, ma a Londra alla fine del 2010, era novembre, ci furono delle proteste che furono portate in piazza dagli studenti. Vi rinfresco la memoria che il governo Cameron triplicò le tasse universitarie, tre volte tanto da un giorno all'altro, e gli studenti scesero in piazza per protestare. Ci furono dei problemi perché la polizia, lui stesso ammise che la polizia intervenne in modo inadeguato per far fronte a quelle azioni degli studenti. Insomma, ci fu un po' di casino. Non mi riferisco agli ultimi riot, quelli di Londra che hanno distrutto tutto, non sono quelli, si parla del novembre 2010. In quell'occasione io trovai su un blog di un amico e in giro per la rete il discorso di un ragazzino che aveva 15 anni nel 2010, quindi adesso ne avrà 17, che era molto arrabbiato, ma era molto lucido e aveva qualcosa di travolgente. Il discorso era ad un convegno, credo, sull'educazione. Quel ragazzino, non so come si chiami, non ne conosco l'identità, ma quello che diceva era questo qua. This was meant to be the first post-ideological generation. Questa doveva essere la prima generazione post-ideologica, giusto? Doveva essere la generazione che non pensava a niente di più grande del proprio profilo Facebook o dello schermo della propria TV. La generazione per cui l'unica cosa importante era guardare X Factor il sabato sera. Penso che questa definizione ora sia ridicola. Penso che ora noi abbiamo dimostrato che siamo una generazione ideologica come mai prima d'ora. Ora abbiamo dimostrato che la solidarietà e tutti quei concetti che sono da sempre associati agli studenti oggi sono importanti come non sono mai stati. who'd come down, who'd never been on a protest before, who'd never joined a political party or been involved in a... Quegli studenti non avevano mai aderito a una protesta prima d'ora, non avevano mai aderito a un partito politico o a un movimento politico. Non avevano nessuna conoscenza economica, laurea in scienze politiche, ma loro erano là perché credevano in qualcosa. Erano là perché credevano in qualcosa di più grande, erano là perché non avevano un milione di possibilità, ne avevano due. La prima era sedersi e sorbirsi tutto quello che il governo gli avrebbe tirato contro, oppure ribellarsi e combattere. E quegli studenti che non erano mai stati coinvolti in nulla prima di allora, si sono ribellati e hanno iniziato a combattere. La gente ha imparato molto mercoledì scorso. Ha imparato molto quando ha visto fuochi per la strada e studenti catturati, e poi ha visto titoli che dicevano vandali. La gente ha imparato molto quando la polizia portava via i ragazzi dalla strada mostrando quanto fossero vandali quelle persone. La gente ha imparato molto. Quindi il messaggio che viene fuori dallo scorso mercoledì è chiaro. Noi non siamo più quella generazione post-ideologica. Non siamo più quella generazione che se ne frega. Non siamo più la generazione che è pronta a sedersi e ricevere qualsiasi cosa ci propongano. Noi siamo la generazione che sta nel cuore del combattimento. Quindi noi vogliamo dimostrare solidarietà con tutti quelli che stanno lottando e speriamo che anche voi lo facciate per mandare un messaggio forte a questo governo. Che loro non possono lanciare contro le loro scelte, noi ci ribelleremo e combatteremo. Qualcuno evidentemente si è offeso per la questione dei CD, continuano a dire che la musica scaricata ha una qualità che fa schifo, CD forever, e addirittura qualcuno che non si firma scrive: io non ho il CD in macchina, ho le musicassette. 349-238-6666, notizie confortanti da Roma, arrivano gli spazzaneve, evviva, via Boccea la Storta. Via Boccea la Storta è il nome di una via, probabilmente. O è via Boccea... Sì, via Boccea la Storta, immagino. E poi ancora, vabbè, Giuseppe mi chiede: Matteo, anche tu sei uno di quelli convinti che per giocare a basket si debba essere alti? Beh, Giuseppe, no, però aiuta. Cioè, ammetterai che quantomeno il basket professionistico, quello professionistico, insomma, quello di alto livello, ha uno standard, ha una barriera all'ingresso, cioè che se non sei alto 1,90 m è molto molto complicato, anche se hai le qualità per farlo. Ancora Enzo: grande raccordo anulare, tutto fermo, informazioni false sui display, niente polizia, non si riesce a raggiungere la 1, sono pieno di collera. Enzo. Poi è arrivata una mail, è arrivata questa mattina, non c'entrava con la neve, però era molto simile alla storia di Marina, sembra quasi peggio in realtà, e lei sembra più arrabbiata ancora. Si chiama Sara la ragazza che mi scrive, se ho tempo ve ne leggo alcuni pezzi. Ciao, mi chiamo Sara. Nel 2003 mi sono diplomata con 110 su 110 in grafica pubblicitaria. Essendo stata soggetta a bullismo e avendo i miei genitori continue lamentele sulla mancanza di soldi, decisi di non frequentare l'università. Iniziai a cercare lavoro, ma tenendo diplomata, immagina, non riuscivo a trovare nulla. E già dopo 3 mesi che cercavo, mio papà era arrabbiatissimo e diceva che dovevo svegliarmi. Alla fine, dopo minacce di trovarmi un posto da cameriera o donna delle pulizie, lui riuscì a farmi assumere come impiegata in una cava di sabbia, 8 ore al giorno, a pesare camion, in un container, da sola. Insomma, poi la mail va avanti, adesso è un po' lunga, quindi non ve la posso leggere tutta, però si conclude più o meno così. Morale della favola: dopo 8 anni lavoro ancora in quel posto, non sono qualificata, sono sola come prima. Dal 2006 sono in cura da un analista perché odio i miei genitori, non li sopporto più e ora decido di andarmene da casa. Entro un mese me ne andrò, anche perché mio fratello finirà le superiori e non voglio essere qui se a lui verrà permesso invece di studiare. I miei mi hanno stortato la vita e non lo scorderò mai. Grazie. Sara, grazie a te. Non è facilissimo ricevere mail come queste, però credo che in qualche modo forse sentire forse sentire le lettere a qualcun altro può aiutare a liberare la rabbia e magari, non lo so, magari a guardarsi un pochettino da fuori. Paola dice invece: mi arrabbio sempre dopo, quando invece bisognerebbe farsela passare. Nadia: sono schiava della rabbia, sì, è una rabbia che resta latente per settimane, anche per mesi. Poi c'è l'incontro, immagino, con qualcuno. Lo vedo, sento la sua voce, i suoi sorrisi che riaccendono i ricordi, e la rabbia mi infuoca, mi rende paonazza, aumenta il battito cardiaco e non mi fa dormire per giorni, anche per settimane. Wow, questa sì che è una arrabbiatura. E poi vabbè, qualcuno mi dice: a me fa arrabbiare la pubblicità martellante con protagonista l'esperta in capelli ricci. Ma che diavolo di studi può aver fatto l'esperta in capelli ricci? Avrà studiato tricologia? Vabbè, ma chi se ne frega. Dobbiamo chiudere, è venerdì. Grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Stefano D'Andrea. Mi raccomando, se siete a Roma, lasciate la macchina dov'è, anche in mezzo alla strada. Scendete a piedi, non montate le catene. Ho visto ancora gente che monta le catene, ragazzi, non si montano le catene in quel modo. Grazie a tutti. Questa era la storia di Marina, parlava della rabbia. La storia di lunedì è la storia di Mario, e parlava di cibo. Sono una fra i quasi 2 miliardi di persone nel mondo che manifestano i segni della DCA, disturbo del comportamento alimentare. Ovvero sono una persona obesa, un mangiatore compulsivo. Il cibo per me è una droga. La sola vista del cibo mi ha sempre terribilmente attratto. Sono arrivato a ingurgitare anche 30.000 calorie in un solo giorno.